è passato un ascoltatore, volevo metterlo in diretta, ho dovuto scappare via. Però ha preso due libri che aveva vinto e passerà sicuramente un bel weekend. Qui intanto sta passando un aereo alle mie spalle, qua una confusione. Un po' di cia cia cia non fa mai male e un pochettino di spaesamento, se vogliamo, aiuta poi a fare chiarezza ancora meglio. È la rassegna Spaesaggi. Spaesaggi con Carlo Maver alla co-direzione artistica, nella rassegna che ci porta sulle nostre colline e soprattutto per conoscere un motivo di incontro, non solo per quanto riguarda il territorio, ma vi è una qualità musicale anche in questo caso, oltre che autentica, di grandissimo valore. Spaesaggi, ne abbiamo già parlato nel Last Minute di mercoledì, perché con il Carlo Maver Quintet sono stati protagonista al Parco della Montagnola, Frida nel Parco, per cui sentiremo ancora qualche anticipazione a riguardo tutto ciò che è già andato nel Last Minute di mercoledì. Ciò non toglie che avremo poi anche la presentazione estesa per un festival che veramente comprende, oltre che un tempo diffuso in posti chiaramente magici, uno in particolare che conosceremo insieme a Carlo, per la qualità musicale, per la bellezza del territorio, per la qualità del convivio ovviamente. Spaesaggi, Carlo Maver, la rassegna che ci porta in Rocchetta Mattei, così ve l'ho già anticipato, anche come sede per questi incontri che vedono un aspetto interessante. E poi sentite che nomi, oltre che quello di Carlo Maver. Allora sì, intanto che sono uno dei direttori artistici, perché la direzione artistica è in collaborazione con Egea Records e Claudio Carboni, che sono così mio sodale ormai da tempo in tutte le esperienze appenniniche e quant'altro, crinali e tante altre cose. Allora, Spaesaggi è questo nuovo festival, fa parte del progetto a Campolo L'Arte Pascola, che appunto questo viene da un bando vinto del PNRR, prevede un sacco di attività nel borgo di fra Campolo e la Rocchetta Mattei, diciamo, quindi nel comune di Grisana Morandi. Spaesaggi è questo festival da noi fortemente voluto. Spaesaggi, appunto, questa parola che viene da paesaggio e spaesamento, che devo dire la verità è anche il titolo del mio primo album uscito nel 2000 con Maver Quartet, quindi nel senso per me ha un valore, perché questa è stata un po' la direzione artistica mia, anche se vuoi, in tutti questi anni, che ha portato poi anche a questo festival, che ha questa direzione qua. L'idea è quella di ritrovarsi in mezzo al nostro Appennino e di incontrare, non so, Salif Keita che suona in un castello che è un po' arabo, un po' russo, un po' medievale. Questa è un po', diciamo così, la cifra stilistica del festival. L'incanto, la meraviglia, la bellezza territoriale, l'occasione di trovare e ritrovarsi all'interno di questa situazione che porta qualità musicale e non solo, e oltretutto la microsensazione di qualcosa che abbiamo costantemente vicino a noi ma che a volte ci sfugge. Quindi la possibilità di vivere Spaesaggi, che inizia esattamente quando, Carlo? Si parte il 22 di luglio con una mostra di Giorgio Morandi e un'incursione della banda Osiris, e poi dopo dal 23 praticamente al 30 non ci fermiamo mai. I primi due giorni saranno a Campolo, al Borgo della Scuola e a Campolo, e poi dopo da giovedì ci spostiamo alla Rocchetta Mattei con un programma molto molto molto nutrito. Non ci spostiamo più dalla Rocchetta fino al 30. Ci sono dei nomi secondo me assolutamente interessanti, proprio come Vinicius Cantuaria, Roby Lakatos, Raiz e il nostro, diciamo così, quello che noi consideriamo un po' il main concert, che è appunto Salif Keita. che sarà sabato 29, sarà possibile presso il castello con DJ Resident, DJ Farrapo, ci sarà anche l'orchestra Slobozanz che viene da Kharkiv, dall'Ucraina, ci sarà Booming 2, ci sarà la possibilità di mangiare e fare aperitivi nel giardino del castello, ci sarà la possibilità di visitare il castello e domenica 30 ci saranno anche delle visite musicali del castello, quindi un po' particolari. C'è Vinicius Cantuaria, lui. Moça feia, que de feia não tem nada. Seus defeitos me deixaram enfeitiçado. Moça feia, sua inexatidão me desarma. Quero ser seu namorado. Toda vez que você diz que é feia, chamo a lua pra ajudar, pra mostrar no seu espelho, porque eu fui me apaixonar. Toda imperfeição. Sentite queste sonorità al piano, così da spaesaggi, davvero, eh? Beh, è Ryuki Sakamoto. Cantuaria Sakamoto. Eu queria te emprestar meus olhos. È la chitarra, Bill Frisell. Questo è un disco che è di una bellezza. Indio de Apartamento e per la Naive. E voglio dare il buongiorno a Luigi che dice: purtroppo non potrò essere alla cena, ma sono passati in sede per, insomma, per dare un aiuto alla nostra, alla vostra realtà, che appunto è Voce Libera nella città e non solo. Grazie per il vostro lavoro, Luigi. Grazie a te, sei una persona speciale. Grazie, Luigi. Sua inesatidão. Desarma. Quero ser seu namorado. Toda vez que você diz que é feia, chamo a lua pra. Questo disco è come un buon piatto di tortellini, non stanca mai. Pra mostrar no seu espelho. Porque eu fui me apaixonar. Toda a imperfeição da natureza basta pra te desmentir. Eu queria te emprestar meus olhos pra você se olhar e rir. Moça feia, quero ser seu namorado. pieno, forbito e oltre che multietnico, eterogeneo di espressione e disciplina musicale, Carlo, si va veramente... L'idea è quella. E quando hai citato la descrizione di un castello russo bizantino, è chiaro che è la Rocchetta Mattei, quello è inequivocabile, insomma, l'attenzione all'arte con Giorgio Morandi. E tu suoni? Allora, io suono appunto in questo quintetto qua e in un concerto un po' particolare, venerdì 29, dove ci sarà appunto prima un omaggio a Ryuichi Sakamoto nella piazza Alvar Aalto di Riola, e poi dopo dentro la chiesa, che è l'unica chiesa costruita da Alvar Aalto in Italia, ci sarà questo concerto che è un po', cioè questo progetto un po' speciale che si chiama Abscolta, che avevo fatto una volta anche alla Certosa di Bologna, è dedicato a Margherete Buni e Cecchelli, che è una figura molto importante della cultura in Appennino, che è venuta a mancare da poco. Lo dico importante in generale perché ha sempre curato una rivista che è Gente di Gaggio e faceva rassegne organistiche negli organi, restaurando organi dell'Appennino, tipo nelle chiese, ed è stato molto importante anche per me perché quando io mi sono trasferito in Appennino per un periodo a vivere, è stata una delle prime persone che mi ha contattato per cominciare a fare concerti appunto in quelle valli, quindi ed è una persona, insomma, così che era veramente, veramente, veramente speciale. Dal 22 al 30, questo è un altro. Questo è Salif Keita. E ci sarà a Spaesaggi. Je t'aime, mi amore, me ni befie, e ne le arabini la, too much. Je t'aime, mi amore, me ni befie, e ne le arabini la, too much. Je t'aime, mi amore, me ni befie, e ne le arabini. Na mo kofie ne ron sila don kilile la ila kola ah ile ne la muluku moso ni na mo kofie soro fale mo sonyo mana osikote no ne kona de ile le le fe je t'aime mi amore veni befie e ne le arabi. Je t'aime, mi amore, me ni befie, e ne le arabi la, too much. Chérie, ne bife. Un tempe, si un tempe, non t'a mi vive, se mi di confiance, non era mais guison. Olhar de nós criança, da dor na brilha de inocência, e na noite se esgritaiada, temporal talvez da mainã, na brandura e calmaria, nós amor deve descansar, disse luta e resistência, para sobreviver nessa tormenta, na brandura e calmaria, nós amor deve descansar. Disse luta e resistência para sobreviver nesse tormento. Je t'aime, mi amore, vedi per fie, e nelle arabilla, tu mangi. Seguitelo il programma, inizierà tra una settimana, dal 22 al 30. Chapeau, bravo Carlo. Je t'aime, mi amore, vedi per fie, e nelle arabilla, tu mangi. Beh, portare Salif Keita, portare Vinicius Cantuaria, avere dei progetti che ascolteremo fra il tradizionale e il contemporaneo. Nell'ultima parte di conversazione con Carlo Maver di Spaesaggi e Crinali ho voluto dare attenzione, certo ci sarà qualche secondo che vi riporterà al 12, all'anticipazione che si è tenuta Frida nel parco, Parco della Montagnola. Non ascoltatelo, ascoltate la parte dopo, non sono stato a montare di nuovo l'intervista e la conversazione, ma la parte successiva con la quale ci congederemo, beh, c'è un aspetto molto interessante secondo me. Allora, è imminente, sì, perché sarà alle ore 21 mercoledì 12 luglio da Frida nel parco, Spaesaggi in città con Carlo Maver Quintet. Stupendoti ancora di più, volevo citare anche un'altra giornata che è, secondo me, molto carina, che è lunedì 24 a Campolo, che comincerà con un'introduzione al ballo liscio, perché comunque appunto, nel senso, parlando di musica etnica, world music e tutto quanto, partiamo anche da noi e partiamo anche con le vere tradizioni della zona, no? E ci sarà un ballo liscio in concerto, che è un progetto, diciamo così, fra liscio, classica ed improvvisazione, con dei musicisti pazzeschi, fra cui è un progetto di Riccardo Tesi e Claudio Carboni, sì. E poi con loro saranno Maurizio Geri, Nico Gore, Roberto Bartoli, Massimo Tagliata, eccetera. E dopo ci sarà invece, si finirà mettendo in pratica le lezioni appunto di liscio prese in precedenza con l'orchestra di Davide Salvi, per fare proprio una serata danzante. Sì, questo prima della musica mazzara di Robby Lakatos o il Brasile psichedelico di Vinicius Cantuari, ecco. Certo, assolutamente coinvolgente. E ricordiamo anche, ovviamente ci saranno, perché abbiamo detto tante cose, piattaforme online per avere il programma in maniera. Allora, assolutamente, c'è il sito che è già attivo, che è spaesaggi.it, e la nostra, diciamo così, pagina di diffusione degli eventi, insomma, così, che rimane quella di Crinali. Però sul sito spaesaggi.it, certo, assolutamente si possono trovare tutte le informazioni. Grazie Carlo per questa esclusiva, buona giornata. Assolutamente, a te. Ciao William. Ciao, ciao. Allora abbiamo portato tre dei protagonisti, con Vinicius Cantuaria, in seguito Salif Keita per Spaesaggi. Chiudiamo con Carlo Maver, last but not least, dal 22 luglio al 30 luglio, da seguire assolutamente, anzi direi da non perdere. La conclusione di questa mini playlist dedicata a Spaesaggi ci accompagnerà alla pubblicità e rientreremo con Entro Terre, perché il Breakfast Club è ovunque. A tra poco. Thank you. Thank you.